con Ottavia Leoni, una delle organizzatrici del Festival delle Eccezioni a Casperia, in provincia di Rieti, dal 31 agosto al 2 settembre. Ottavia, ben trovata. Grazie anche a voi. Raccontiamo questo festival, che credo sia la prima edizione. Sì, questo festival è la prima edizione ed è anche un festival molto particolare che abbiamo deciso di, diciamo, proporre a tutto il territorio della Sabina, anche perché ci saranno in qualche modo molti artisti che abbiamo scovato in Sabina, quindi è una cosa che li riguarda da vicino. È un festival per parlare del rapporto tra regole ed eccezioni, soprattutto di tutte quelle regole, vincoli, leggi che una persona, nello specifico un artista, visto che noi ci occupiamo di arte, diciamo, a vario titolo, si impone tutti quei vincoli che una persona decide di seguire e tutte le possibilità creative che nascono proprio dal fatto di seguire queste leggi, queste regole, questi vincoli, ovvero la creatività e la fantasia, contrariamente a quanto si può pensare, non è vero che è stimolata dalla libertà più totale. Si è molto più creativi e fantasiosi quando si comincia a tracciare un confine all'interno del quale stare, a seguire una regola. Per esempio, questo disegno lo faccio solo con il rosso, oppure usando solo delle forme geometriche, oppure per esempio non uso colori e uso solamente oggetti riciclati. Quindi in questo caso l'artista si impone una scelta e la segue fino in fondo, e questo è molto più stimolante. Sì. Soprattutto perché questo fa sì che l'artista in qualche modo possa seguire dei percorsi che sono meno ovvi di quelli che seguirebbe normalmente, e in questi percorsi magari anche ha la possibilità di scoprire delle cose nuove. Sì. Alle volte sono cose interessanti, alle volte meno. E quindi noi lavoriamo proprio su questo, perché poi nel tempo abbiamo capito che questo rapporto tra regola ed eccezione riguarda ogni aspetto della vita dell'uomo, dalle scelte che uno fa anche banalmente per mangiare, oppure anche proprio ogni aspetto della vita, diciamo, intellettiva dell'uomo. Anche l'evoluzionismo lavora in questi termini, cioè di solito una specie segue un certo tipo di percorso, quindi sta all'interno di una regola, e poi a un certo punto c'è un'eccezione che fa saltare fuori quell'elemento, e pian piano quell'elemento allora a quel punto segue un altro percorso e nel tempo, diciamo, nasce una nuova specie. Quindi è proprio una cosa molto trasversale. Sì. E infatti sarà dimmi, io vado avanti a un No, stavo pensando a come si traduce nel festival. Questa cosa si traduce infatti col fatto che il festival, diciamo, prevede cose che sono molto diverse. Per esempio, venerdì ci sarà un incontro con Guido Accascina che si occupa di storia dell'arte. L'incontro si intitola L'arte spiegata a me stesso, e ci racconterà come la storia dell'arte è solo uno sviluppo del diverso rapporto, proprio rapporto fisico e geometrico, tra il pittore, la tela e la natura che lui vede. Poi però subito dopo lasciamo da parte per un attimo e parliamo con Paolo Berdini, che è un urbanista invece, e lui ci racconta delle regole della città e della bellezza, cioè che tipo di rapporto c'è tra organizzazione di una città, e quindi urbanistica, e quindi piani urbani, e la bellezza di questa stessa città. E la sera cambiamo di nuovo e abbiamo un concerto di musica con due artisti meravigliosi che suonano le verdure, e quindi loro si sono imposti, diciamo, di fare musica solo con la verdura, infilano degli elettrodi nel pomodoro, nella zucchina, sì, eccetera, sì, sì. E trasformano queste verdure come se fossero dei tasti di un pianoforte, sostanzialmente. Sì. Il giorno dopo invece abbiamo un incontro sui giochi di parole, la letteratura potenziale, fatto da due scrittori che sono Pergola e Talon, e lavoreranno e giocheranno proprio col pubblico, diciamo, sulle parole, sulla bellezza della letteratura e dell'italiano. Il pomeriggio c'è un antropologo che invece ci racconta di come la nostra cultura sia qualcosa che ci costringe e ci protegge, ci dà un'identità, ma allo stesso tempo se rimane così diciamo chiusa è anche un limite, e quindi così come fa il paguro che ogni tanto lascia la sua casetta e se ne forma una di più grande, forse anche noi ogni tanto dovremmo abbandonare alcune certezze, essere un attimo in pericolo in quella fase lì, però poi riuscire a costruire una casa che contenga ancora più cose. Poi ci sarà un performance di danza, anche qui io vado avanti al pranzo, ti posso dire tutto quanto il programma perché è veramente molto denso. Ci sarà una camminata notturna dove a un certo punto di questa camminata un attore che è Vittorio Continelli ci racconterà i limiti degli dèi, perché non, magari uno può pensare di no, ma anche gli dèi avevano dei limiti, non erano onnipotenti in qualche modo. E infine il giorno dopo ancora, ovvero la domenica, avremo invece un discorso molto interessante fatto da Diva Ricevuto sulle regole di una comunità. Diva Ricevuto fa parte di un'associazione che si chiama Sulle Regole, fondata da Gherardo Colombo, e rifletteremo proprio su che cosa significa creare una comunità e mettersi insieme, decidere di seguire delle regole piuttosto che altre. E poi invece si ride con due clown meravigliosi che ci raccontano le regole della comicità, e quindi ci sarà uno spettacolo dei Donati Olesen per chiudere il tutto con una maratona di stile dove leggeremo gli esercizi di stile di Queneau, che sono in qualche modo anche un po' un emblema di quello di cui stiamo un po' provando a chiacchierare, cioè Queneau con il suo libro prende una piccola storia, la racconta in 8 righe e poi dalla pagina successiva racconta quella stessa storia in un centinaio di modi diversi. Quindi una stessa cosa, se tu ti imponi di seguire uno stile che sia di volta in volta diverso, te la fa raccontare, te la fa vedere con occhi nuovi. Lo stesso mi fa pensare al regista Lars von Trier, che su questo ha girato proprio un film. Ah beh, assolutamente sì, infatti sì. Purtroppo quest'anno, visto che le forze erano poche, tutta la parte cinematografica siamo riusciti a farla entrare poco, ma è assolutamente uno dei nostri obiettivi quello di farla rientrare, perché tutta l'estetica cinematografica racconta molto di questo discorso. Sì, sì. In chiusura, per tutti i riferimenti e per saperne di più, ci lasci tutti gli spazi, gli indirizzi web dove cercare? Del caso, guarda, ti lascio un numero delle prenotazioni perché gli eventi sono tutti gratuiti, ma alcuni di questi vanno prenotati, soprattutto i laboratori per bambini, e quindi il numero per le prenotazioni è 370-306-9571. E invece per sapere più nello specifico, diciamo, i singoli incontri e gli argomenti, c'è il nostro sito che è www.festivaldelleeccezioni.it. Un ringraziamento e un saluto ad Ottavia Leoni, una delle organizzatrici del Festival delle Eccezioni, prima edizione a Casperia, provincia di Rieti, dal 31 agosto al 2 settembre. Ottavia, un abbraccio e in bocca al lupo. Grazie mille davvero e un abbraccio a te e a tutti voi.